La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. In occasione dei 40 anni delle prime elezioni regionali in Italia, l'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla prima chiamata alle urne degli italiani per eleggere i governi regionali il 7 giugno 1970. Ospite ai nostri microfoni Gianfranco Pasquino, professore di scienza politica all'Università di Bologna, politologo, saggista. È il 7 giugno del 1970, una data che molti ricordano per la storica semifinale di calcio dei mondiali tra Italia e Germania. Partita epica, lo ricorderete, che l'Italia vinse per 4-3. Ma al di là dell'evento sportivo, in realtà quella giornata merita di essere rievocata per un altro motivo. Per la prima volta nella storia della Repubblica, 21 milioni di italiani si recavano alle urne per eleggere i consigli delle 15 regioni a statuto ordinario, che nel sistema allora vigente eleggevano a loro volta i presidenti delle regioni. Un evento che ebbe una sua rilevanza e che oggi merita di essere rievocato, poiché dovrebbe tra breve mettersi in moto il convoglio del federalismo fiscale in ossequio alla legge delega approvata dal Parlamento il 5 maggio del 2009. In 40 anni le regioni, alle prese oggi con i pesanti tagli imposti dalla manovra di bilancio, hanno acquisito un ruolo sempre più importante e decisivo, tanto da divenire un soggetto politico e amministrativo di primissimo piano. L'anno di partenza è il 1962, quando l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia regionale divenne uno dei punti centrali del programma del quarto governo Fanfani, formato da DC, PRI e PSD, con l'appoggio esterno del PSI. Nel primo governo Moro del dicembre 1963, il tema regionale ritornò al centro del programma politico, ma fu solo nel 1967 che il ministro dell'Interno, Paolo Emilio Taviani, presentò alla Camera un disegno di legge, poi approvato come legge elettorale regionale. Nel testo si stabiliva che le prime elezioni regionali dovessero avvenire contemporaneamente alle elezioni comunali e provinciali e che in ogni caso si sarebbero dovute tenere entro il 1969, termine poi spostato alla primavera del 1970 dalla legge 7 novembre 1968. Il 22 maggio 1970 fu pubblicata la legge 16 maggio 1970 numero 281, provvedimento finanziario per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Gli italiani si recarono alle urne e si espressero per la prima volta in elezioni regionali secondo la logica di appartenenza a questo o quel partito. Non era prevista come oggi l'elezione diretta del presidente della regione e dei consigli regionali sostenuta da una o più liste. Il 7 giugno 1970 si votò in 15 regioni a statuto ordinario con il sistema proporzionale. La Democrazia Cristiana conquistò il 37,8% dei suffragi, mentre il Partito Comunista si attestò al 27,8%, seguito dal Partito Socialista al 10,4% e dal Partito Socialdemocratico al 6,9%. Il Partito Repubblicano conquistò il 2,8% dei voti, mentre il Partito Liberale si attestò al 4,7% e il Movimento Sociale Italiano al 5,9%. Tra gli altri partiti si segnalò il Partito Socialista di Unità Proletaria che ottenne il 3,2% dei voti. Poiché era la prima volta che gli italiani votavano per i consigli regionali, gli unici raffronti possibili erano con le precedenti elezioni politiche e amministrative. Rispetto alle politiche del 1968, la Democrazia Cristiana arretrò dell'1,3%, mentre il Partito Comunista ottenne lo 0,9% in più. Un risultato che i dirigenti del Partito Comunista di allora giudicarono ottimo, poiché era ancora forte il vento della contestazione studentesca del 1968. Fino all'autunno caldo del 1969, i comunisti avevano infatti temuto una sorta di saldatura tra la protesta studentesca e quella operaia. Nel 1969 erano peraltro usciti dal partito gli scissionisti comunisti del Manifesto, mentre il Partito Comunista di Berlinguer rafforzava la sua identità riformista e occidentale. Quanto alla Democrazia Cristiana, dopo la breve pausa del governo di centrosinistra varato nell'aprile del 1970, si cominciava a fare i conti con l'avanzata del movimento sociale e con la perdita di consensi nell'elettorato moderato orientato a destra, ma anche anche con l'affermazione dei socialdemocratici. Ma come si collocano le elezioni regionali del 1970 all'interno del panorama politico italiano di allora? Lo chiediamo a Gianfranco Pasquino, professore di scienza politica all'Università di Bologna, politologo, saggista e molte altre cose. Professore, grazie per aver accettato il nostro invito, prima di tutto. Grazie a voi. Le chiederei in prima battuta esattamente questo, al di là del risultato del 1970, era la prima volta che gli italiani si recarono alle urne per eleggere i consigli regionali. Intanto, secondo lei, ci fu già allora la percezione dell'importanza di questo istituto nuovo, tutto sommato, previsto dalla Costituzione, ma realizzato proprio in quegli anni? Succede, ci furono due tipi di valutazioni. Da un lato la valutazione della classe politica, di molti commentatori e devo anche dire di quello che chiamerò il ceto dei giuristi, che quello fosse un momento importante perché produceva finalmente il regionalismo che stava scritto nella Costituzione ma che non era stato attuato e che forse quel regionalismo avrebbe contribuito a riformare lo Stato. E il culmine del processo di riforme che il centro-sinistra aveva aperto, ma purtroppo è il culmine al quale non faranno seguito altre riforme. Dall'altro gli elettori che semplicemente andarono a votare e scelsero, come avevano fatto in precedenza e come faranno anche dopo, i loro partiti sulla base di motivazioni che erano prevalentemente di appartenenza. Naturalmente dal punto di vista dell'esito è chiaro che apparve molto chiaramente che il Partito Comunista o se si vuole la sinistra erano forti per l'appunto nelle famose regioni centrali. E tutto questo però era prevedibile, quindi non provocò nessun tipo di sconvolgimento. Eppure in quegli anni, insomma, c'era un po' di movimento sullo scenario politico italiano, professore. Mi ricollego alle elezioni del 1968, ma anche alle politiche del 72. In qualche modo stava entrando un po' in crisi anche quel tentativo che poi era stato messo in piedi già all'inizio degli anni 60 del centrosinistra, e la Democrazia Cristiana cominciava un po' a fare i conti anche con l'avanzata del movimento sociale, la perdita di consensi a destra, ma anche l'affermazione dei socialdemocratici. Ecco, come possiamo sintetizzare il clima politico degli inizi degli anni 70? Ma è un clima politico che io sintetizzerei con la parola radicalizzazione, perché da un lato c'è naturalmente un confronto in Parlamento, un confronto molto duro, anche perché naturalmente il movimento sociale era assolutamente contrario alla regionalizzazione, poi combatté sulle barricate di Reggio Calabria per avere la capitale di Reggio al grido "voi a chi molla", e quindi mobilitò una parte del suo elettorato meridionale, qualcuno direbbe delle plebi meridionali. Dall'altra parte però era già cominciata una fase nella quale una parte della sinistra extraparlamentare, attraverso i suoi movimenti e le sue organizzazioni, intraprendeva una via che sarebbe stata poi terroristica, e quindi c'erano molte tensioni a livello sociale, erano già avvenuti alcuni fatti molto gravi, la strage di Milano, Piazza Fontana, e quindi c'era una sorta di organizzazione di varianti terroristiche sia di destra che di sinistra. Tutto questo giovò, almeno così parve, soprattutto al centrodestra, in particolare al movimento sociale, e produsse fra l'altro le elezioni di Giovanni Leone, Presidente della Repubblica, per la prima volta con i voti determinanti del movimento sociale, che chiese subito e ottenne lo scioglimento del Parlamento per incassare anche dal punto di vista dei seggi parlamentari il sostegno dato a Leone, e lo ottenne. Il movimento sociale ebbe un grande successo elettorale nel 72, però fu un successo di Pirro, perché la sinistra in realtà era molto più forte dal punto di vista dei numeri, ma si era frammentata in maniera straordinaria. C'erano moltissime liste di sinistra, Manifesto, marxisti-leninisti, Movimento Politico dei Lavoratori, l'OPSI-UP che non riuscì a fare, come si dice, il quorum, non entrò in Parlamento, ma ottenne però più di 600.000 voti. Cioè la sinistra paradossalmente era fortissima, ma apparve debole. Poi ritornò a essere forte nelle elezioni del 75 e del 76. E ora, professor Pasquino, ritorniamo a parlare un attimo proprio delle regioni. Con la modifica del titolo V del 2001 hanno acquisito un ruolo decisamente rilevante all'interno del panorama istituzionale italiano e soprattutto in previsione del federalismo fiscale. Qual è il suo punto di vista sull'argomento? Ma lei mi porta oggi, ma io una cosa del passato la devo ricordare per tutti, e cioè che quando si passò al regionalismo, Ugo La Malfa, politico di grande capacità intellettuali e anche di capacità di prevedere il futuro, aveva chiesto che si abolissero le province molto semplicemente, e invece quello non si fece, e oggi ci troviamo con delle regioni che hanno certo dei poteri di governo, ma in realtà soprattutto in materia di sanità e di poche altre materie, forse di istruzione professionale, e abbiamo delle province che costituiscono un ente intermedio tra comuni e regioni, che crescono di numero e che naturalmente a loro volta strappano poteri in qua e in là. Siamo in una situazione che io chiamerei tutt'altro che federalismo, ma di confusione istituzionale, e fino a quando non si procederà ad una semplificazione del circuito complessivo istituzionale, le regioni, alcune inevitabilmente sono ben governate perché hanno una buona classe politica, altre sono invece governate molto male, e però non hanno secondo me quel ruolo che dovrebbero, forse potrebbero, qualcuno pensa che sarebbe utile se avessero, che per esempio hanno i Länder nel contesto tedesco. Professore, molte grazie.